Buonasera a tutti e bentornati a questa ottava puntata di Geek Cookies. Ci siamo fatti attendere per un po', ma ci siamo, non ci siamo dimenticati di voi e soprattutto siamo di nuovo in tre. Infatti negli altri studi troviamo Massimiliano. Salve, buonasera. E Mario. Buonasera a tutti, bentornati. Bene, io comincerei con una brevissima scaletta giusto per indicarvi ciò di cui parleremo in questa oretta e mezza, che poi diventeranno due e mezza, penso, però vediamo di contenerci. Cominceremo con le solite nostre news, qualche cosa di un po' geek, di un po' nerd. Parleremo, il tema principale sarà la seconda parte sulla realizzazione del podcast. Abbiamo parlato dell'audio la volta scorsa, questa volta parliamo della pubblicazione, perché un podcast che è registrato benissimo ma non è pubblicato non lo ascolta nessuno. E poi abbiamo un po' di richieste di ascoltatori che cercheremo di tirare in trasmissione. Vi anticipiamo che ci fa veramente molto molto piacere avere tutte queste domande, quindi non smettete di farcele. Ho detto tutto? Sì? Mi sembra di sì, siamo stati più esaustivi del solito, stranamente, quindi... Perfetto. Ottimo. Innanzitutto direi che Max, che è zitto, dovrebbe parlare, perché dovrebbe farci sentire l'audio del suo nuovo super microfono, finalmente, vero Max? Finalmente, non ci sono più tutti gli effetti cascata delle marmore o l'uomo nero, cose esatto. Di questo tipo. Però ora, sempre che GarageBand non ci metta lo zampino alla fine, non registri assolutamente niente, quindi esatto. No, ecco, tutto da buttare. Speriamo ardentemente di no, perché sennò gli ascoltatori questa puntata non la ascolteranno. Sì, poi ho completato il microfono con un assetto che Mario se lo sogna. Io mi sono fatto un ragno per tenere questo microfono, che è incredibile. Infatti, niente foto. Posterò su Twitter una bella foto. Stavo appunto facendo quello, era per questo che ero zitto. Okay. Vedrete. Sono curioso. Qualcosa di fatto a mano, non puoi arrivare a questa magnificenza. Mi dispiace. Il mio primo ragno, che era una scatola di scarpe bucata con degli elastici, non lo batte nessuno, penso. Io vinco perché il ragno ancora non ce l'ho. Ho la mia bella staffa e oggi sono in postazione che non tocco neanche il tavolo, quindi... Stai evitando? No, io sono seduto sul divano a una discreta distanza dal tavolo, quindi... Perché tu hai i mezzi professionali. Cioè, esatto. Sì, il professionissimo divano di IKEA. Bravo, guarda, quello è un must. Certo, sempre. Cioè, se in una casa non c'è una cosa di IKEA, non puoi definirla casa, esatto. Ormai. Quindi... Non ti danno l'autorizzazione proprio a viverci, probabilmente. Ah, perfetto, deve esserci per forza qualcosa. Qua direi che forse c'è qualcosa che non lo è, forse, okay, ma non ne sono certo. Ottimo, buono. Bene. Allora, un attimo, volevo ricordare che il microfono di Max è offerto dai potenti mezzi dei... Non sono donazioni, sono, diciamo, i proventi che noi riceviamo dai vostri acquisti su Amazon. Quindi il microfono di Max è stato finanziato da tutti, praticamente. Quindi è la prima cosa... effettiva hardware che riusciamo a far entrare per migliorare il nostro audio, quindi spero che la cosa vi stimoli a continuare a aiutarci. E la seconda cosa, sicuramente in effetti... gli riposa le orecchie. Scusa? Sicuramente dico riposa le orecchie a chi ascolta. Vabbè. Ma guarda, la qualità già sentendola così è spaziale rispetto al microfono che avevi prima, è eccezionale. Concordo. Bene. E direi che è la seconda cosa che abbiamo acquistato, perché la prima cosa è stato l'eccellente pod cleaner che ci aiuta a montare e a pulire l'audio delle nostre puntate. Ma il ringraziamento sarà abbastanza a Alex, che lo ha sviluppato. Sì. E vorrei dire che l'abbiamo comprato, non ce l'ha regalato per fare sponsor. Comprate tre copie, una a testa, con soldi suonanti. Esatto. Costava una follia, però sempre soldi. Guarda, 1,90, sì, sì, 2 euro. 2 dollari. Okay. Ma come, a me avete passato il crack? Ah no, 200 è il dollari, mi sembra. Il crack, Max, non farti sentire da Alex che ti raggiunge, Dai, attenzione, va okay. Bene, diciamo che nella scaletta c'erano un po' di news, solo che noi abbiamo atteso un po' troppo a fare questa puntata qua e ne sono rimaste due che sono news che in effetti scadono poco. Io comincio con l'esperienza che ho fatto alla Torino Mini Maker Fair, che secondo me è stata una fiera, mettiamola così, veramente carina. Ho conosciuto un sacco di persone interessanti, un sacco di idee e progetti davvero belli. Vi preannuncio che abbiamo un po' di contatti, anche di un certo calibro, quindi potrebbe essere che nelle prossime puntate ci sia qualche ospite veramente, veramente interessante. Faranno quella di Roma, non so se a luglio o a settembre, se siete da quelle parti o se potete andarci, io un giro vi consiglio di farlo. Sarebbe sempre una cosa bella. Ma se non sbaglio, dai tuoi tweet mi sa che hai visto anche il santo Banzi da lontano. Quasi da vicino. Volevo stringergli la mano, ma c'aveva troppa gente intorno. È un omone grande grande, ma okay. Che non fa paura. Ti sei genuflesso almeno al passaggio. Assolutamente sì. San Banzi, sempre esatto. Santo. Bravo. Puntato di aura intorno. Esatto. Sì, è vero, è vero. Ora che fa scattare sensori, partire fotocamere, robe così. Ah, hanno presentato casa Jasmina che ha più sensori che mattoni, quindi è stato veramente veramente carino. Bello. E soprattutto si vede che queste schede hanno lanciato davvero, non hanno limite, l'unico limite è la fantasia, ma noi siamo in tante persone nel mondo e quindi non c'è limite. Ho anche fatto quattro chiacchiere con i signori di Arduino per la faccenda Arduino Genuino, okay. E queste cose qua. Magari riusciamo a parlare con uno di loro una delle prossime puntate, così ci possono dire bene bene tutto quello che è successo. Vi anticipo solo che Arduino ha avuto questa difficoltà della scissione. Il problema, da quello che ho capito, è che il marchio Arduino non era stato registrato in Europa. Sì. E quindi se lo è preso l'altra persona. Loro erano bloccati, esatto, nella produzione, non potevano fare più nulla e quindi hanno fondato questa Genuino, che è l'Arduino in Europa, perché in America, dove il marchio era registrato, è comunque Arduino. Esatto. E io avevo letto che era un pelo più complicato, che all'inizio i fondatori si erano tra di loro accordati di non registrare il marchio in Europa, e quello, diciamo, la società che adesso detiene il marchio l'ha fatto alle spalle degli altri, un bordello. Comunque, se vengono ce ne faranno un racconto, diciamo, loro. Però sarebbe anche bello avere tutte e due le parti, perché sai, nella vita non c'è mai tutto bianco o nero, cioè ci sono comunque sfumature in mezzo, cose non dette, eccetera. No, quindi non sarebbe male cercare anche l'altra controparte. Non ho contatti, ma secondo me nel mare magno iscrive, sì, che potrebbe essere interessato. Internet sicuramente ci avvicina a tutti. Esatto, se usano internet, poi non lo so. Ma penso di sì, sai. Chissà. Ottimo, allora io posso... Aspetta un attimo, potrei introdurre io oppure la nostra nuova voce della notte, Massimiliano, vuole introdurre il prossimo punto per far sentire... Far sentire la voce? Ah, che bello, sei meglio allora, del mio microfono in locale, incredibile. No, ma io che sono dall'esterno sento meglio Massimiliano di Mario. Mario, mi dispiace. Ma io ho giocato con i driver audio, penso che esploderà il computer stasera, quindi... Speriamo di no. Lo spero anche, mi serve. No, innanzitutto ci serve per la puntata. Poi di cosa serve a te è in secondo piano. Hai ragione. Prego. Va bene. Allora andiamo avanti con i punti e arriviamo ad un punto importantissimo, perché chi non lo avesse ancora notato, nella Twittersfera, l'internet sfera o come la volete chiamare, c'è un nuovo podcast, ne facciamo menzione semplicemente perché è il podcast di Francesco. Esatto, Giuro? Esatto. Yeah? Perfetto. Allora, il podcast si chiama Pillole di Beat, è un podcast che ha puntate molto più brevi rispetto a quelle che facciamo noi qua, puntate di un quarto d'ora, se non erro, 10 minuti, un quarto d'ora. oscilla tra 10 minuti e un quarto d'ora. Il vantaggio è che non c'è gente che mi stimola a parlare di più come che facciamo noi qua, quindi io mi faccio la scaletta e riesco da solo a rispettarla. Ok, e ha già all'attivo penso 3-4 puntate. Sì, direi proprio di sì. Aspetta, perché io ne ho registrate abbastanza, quindi ora non mi ricordo più a che puntata siamo. Se non erro, in questo momento dovresti essere la terza pubblicata, la quarta registrata. Giusto. E la puntata numero 4 uscirà lunedì prossimo, che poi per chi ascolta magari sarà già uscita a seconda del nostro montaggio. Esatto. Perfetto, allora di cosa parla? Allora, nonostante il titolo faccia riferimento ai bit, quindi si possa pensare ad un argomento prettamente informatico, spazi argomenti anche lì, diciamo, geek, però molto più tecnici rispetto a come li affrontiamo noi. Ad esempio, hai parlato, se non sbaglio, nella prima puntata hai parlato dei LED, hai parlato dei trasformatori, tutto questo analizzandoli proprio nel dettaglio. Sì, diciamo che l'obiettivo mio è dare una panoramica di come funziona e di che cosa c'è dentro a tutte le cose che noi usiamo tutti i giorni, che abbiamo in tasca. Un telefonino per noi ora è un pezzo di alluminio con un display che ci fa vedere delle cose, però dentro ha una complessità tale che secondo me capire come è fatto, anche non al singolo bit, perché è anche troppo per me, però magari capire che dentro c'è una batteria che funziona in un certo modo, che il caricabatterie è un'altra cosa che tutti quanti noi mettiamo nella presa e lui carica, ma perché carica? Perché dobbiamo usare quello e non un altro? E tutte queste cose qua, visto che a me piace quando le persone mi chiedono: senti, ma questo come funziona? Io gli racconto tutto. Alcune si addormentano, altre no. Io ho cercato di mantenere in 10 minuti un argomento. È ovvio che poi le cose un po' più complesse, sto registrando tutta la parte di memorizzazione del singolo dato sui vari supporti, non posso farlo in 10 minuti, quindi saranno più puntate. Beh, certo, ovviamente. Bene, detto questo, ricordiamo il link al sito dove potranno poi trovare tutti quanti i link alle puntate. Il sito è pilloledibit.wordpress.com. Quindi mi trovate anche trovate il podcast anche su Twitter @ pilloledibit, e ovviamente c'è il feed sia sul sito che su iTunes per registrarsi, come tutti i podcast che si rispettino. Bene, allora in bocca al lupo per questo progetto, questo side project. Crepi, grazie. Allora, io posso solo consigliarlo, cioè una cosa che a me è piaciuta tantissimo. L'avessi sentito prima, tipo la parte sui alimentatori, quando bestemmiavo col mio Raspberry Media Center che bruciava hard disk su hard disk per un alimentatore sottodimensionato, tra l'altro, scoperto dopo. Quindi eh sì, cioè, l'alimentatore, se gli chiedete troppa corrente, lui cerca di bilanciare. Esatto. E in certi casi alza la tensione, solo che tensione più alta bruci tutto. Raspberry tra l'altro è pochissimo protetto su queste cose, quindi quando partono questi voltaggi a cavolo comincia a fare cose assurde. Quindi seguite il podcast di Francesco e dimensionate tutto bene, anzi con margini ampi. Questo è il mio consiglio. Soprattutto sulla parte corrente. Se vi serve un ampere, fate che averne due, che è meglio. Ma fate 20, tanto. No, 20 comincia a essere un po' troppo grosso. il dispositivo è grosso come 10 Raspberry. Lo so. Crepi l'avarizia, dai. Va bene. Bon. Allora, passiamo all'argomento principale a questo punto. Abbiamo parlato di podcast e continuiamo a parlare di podcast. La puntata scorsa abbiamo parlato di come si registra e come si monta con il buon Alex, che è un esperto di montaggi audio video, e oggi parliamo di come si pubblica sul web, che non sembra, ma non è proprio una fesseria, perché alcune cose devono essere tenute da conto per evitare di perdere dati, riuscire a far scaricare le puntate agli ascoltatori, essere visibili. Non so, Mario, vuoi cominciare tu con la parte di tag del file audio? Ok, questo, sì, giusto, questa puntata me l'ero persa perché ero in viaggio di lavoro, se non mi ricordo. Ma è passato tanto di quel tempo. Eri in maternità. Sì, giusto. esatto, dopo lo sforzo non riuscivo più. Sì, quindi, allora, tra le varie cose che... Adesso la puntata l'ho sentita, quindi può essere però che mi dimentichi qualcosa, l'ho sentita in viaggio. Se non sbaglio ci eravamo dimenticati di dire queste ultime due cosettine molto importanti per quando si pubblica un podcast. È una volta che avete registrato il vostro audio e poi trasformato nel formato che volete, quindi da file non compresso a in genere un file mp3, si possono usare anche altri formati, però è quello che viene per la maggiore utilizzato per la compattezza. Una cosa importantissima è quella di aggiungere i cosiddetti tag all'interno del file, in modo che questi tag possano essere letti da vari programmi, quindi possono essere indicizzati e anche tutte quelle belle cose che voi vedete quando scaricate col vostro aggregatore di podcast, che sia in iTunes o quello che volete, il nome della persona che ha registrato, il nome della puntata, il nome dello show, eccetera. Sono tutti piccoli bit di informazioni che sono registrati in una parte del file mp3. Allora, ci sono vari approcci. Io non so voi come fate, adesso vi dico in genere come ho fatto io. All'inizio, io una volta che avevo montato le tracce, messo tutto insieme, poi convertito in mp3, importavo il file in iTunes. Questo perché, come dire, Apple come sempre ha delle piccole differenze rispetto agli altri, quindi iTunes permetteva, una volta salvate le tag mp3 che scrivi in iTunes, di avere un file in mp3 che poi quando le persone lo scaricano con iTunes o con come si chiama l'aggregatore di podcast per iOS che non uso più da due vite più o meno, c'ha un nome? Podcast. Perfetto. Sì, sì. Fantasia, ok, perfetto. ed è talmente brutto che lo usano forse in 4, 3 dentro Apple e 2 fuori. Due fuori, uno per sbaglio. Ottimo. E quindi con podcast oppure con iTunes, io per dire uso un altro aggregatore per Android, comunque quello che voi utilizzate, iTunes ha sempre delle richieste particolari, quindi se lo salvate con iTunes siete sicuri che le tag siano scritte nel modo che loro vogliono. Da un po' cambiato questa cosa perché la scrittura tramite iTunes comportava sempre di dover importare il file in iTunes, scrivere a mania tutte le cose, salvarlo, poi andare a vedere dove iTunes salva quel file, tirarlo fuori, nominarlo, perché iTunes automaticamente lo nomina con la tag titolo, se non sbaglio cambia il nome del file, e noi vogliamo avere un nome del file consistente legato a nome della puntata, nome dello show, eccetera. Quindi io sono passato da usare iTunes a usare un io sono un patito della shell, questo, quindi prima che qualcuno scarichi una guerra contro di me. Io tutto questo lo faccio tramite Shell, a parte il montaggio con PodCleaner. Una volta che ho tirato fuori un file... Aspetta, vorrei solo dire che tu hai proposto ad Alex di fare PodCleaner da Shell, quindi... Non me lo vuole fare, è una cosa per cui lo odio, però lo voglio anche bene, guarda, non fa niente. Scusa se ti ho interrotto, ma no, ci no, stava. No, hai ragione. Questo farebbe un, come dire, un workflow perfetto, in modo che io posso tirare fuori la roba che stiamo registrando adesso... e la passo a una catena di programmi che fanno tutto quello che voglio. Però PodCleaner per adesso è pensato come un'interfaccia, quindi dobbiamo per forza aprire, cliccare, eccetera, che è una cosa che in genere odio. Cioè, se la devi fare una o due volte va bene, però doverlo fare ripetutamente, sistematicamente, mille volte diventa fastidioso. Comunque, dicevo, sono passato da iTunes a usare FFmpeg, che è un programmino in Shell che probabilmente conoscerete o alcuni ascoltatori conosceranno, che viene utilizzato generalmente per convertire in genere audio sotto Linux o sotto, beh, in questo caso sotto Mac. E la cosa che ho scoperto carina è che posso utilizzarlo per convertire audio, quindi convertire tipo la compressione audio dell'MP3 che voglio, tirare insieme i due canali audio, separarli, cambiare il rating kilohertz, eccetera. E la cosa figa è che FFmpeg ti permette di settare anche i tag MP3 direttamente da Shell, quindi io posso fare velocemente esportare la traccia audio totale in formato non compresso una volta che l'ho montata, quindi lo faccio abbastanza velocemente, la do in pasto FFmpeg e dicendogli di trasformarla in MP3, fissare il sampling della frequenza, quanti canali audio, se voglio unirli, il tipo di encoder che voglio, che posso selezionarlo, il tipo di compressione, eccetera, e poi tutta la lista di tag, che poi nella mia mente malata dovrei prendere automaticamente dal file che uso per generare il blog post relativo alla puntata sul blog. Però a questo passo non ci sono ancora arrivato. Però secondo me si potrebbe fare. Perciò vorrei avere PodCleaner in shell. Quindi potrei fare generare il file audio, il file del blog, con tutti i metadati dentro, che poi vanno a finire anche nell'audio. Quindi sarebbe un tripudio di felicità e di compattezza. Mi raccomando, non diamo l'indirizzo di Mario a nessuno, perché sennò gli mandano la neuro e lo ricoverano in una casa di cura dove c'è soltanto esatto. Windows. Ma voi ti odio. Voi pensate che io viva in Germania, in realtà è una copertura, che sono tipo Snowden, perciò. Io lo so che vivi in Germania, non ti preoccupare. Non hai visto casa mia? Io in realtà ero venuto col treno da un posto lontano solo per incontrare te. Non sai niente. Ok, perfetto. Okay, buona scusa, quindi... bravo. Grazie. L'altra cosa molto importante per i podcast è trovare un'immagine di copertina e attaccarla insieme al file che voi state consegnando, in modo che quando voi lo scaricate, specialmente sui dispositivi mobili, avete una bella immagine, come quando ascoltate l'audio e mettete in pausa il cellulare, vedete una bella immagine. Quella è l'immagine cover che è legata al file che voi date ai vostri utenti. Questo passo non sono riuscito un modo a trovarlo, sono riuscito a trovare un modo per farlo via shell, cioè devo farlo con iTunes. Ho trovato un modo per attaccare un file immagine come tag in un file MP3. Immagine perché lo codifichi in qualche formato strano e lo schiaffi all'interno di un campo testo, una roba del genere, però non ho trovato un modo. Se qualcuno degli ascoltatori ha un consiglio, un supporto per me, sarei felicissimo di saltare questa fase con iTunes. Quindi io direi che per la parte audio io sto a posto. Se volete qualcosa da aggiungere, Max? No, io nulla, sono un po', come dire, fuori dal giro sotto questo argomento. Io da parte mia vi dico che sono... La shell mi piace, ma non ne vado così matto come Mario. Io uso il buon Audacity, che è gratis, funziona gran bene. Con il lame encoder fa anche gli MP3 e permette di mettere i tag. Tutto questo ovviamente manualmente. L'immagine ancora no, cioè non lo può fare, quindi io uso poi l'immagine che ci appiccica il sistema di storage di cui parleremo ora. Ok. Max, tu hai visto cose che usiamo noi? Perché io non conosco il nostro storage. Lo storage in effetti anch'io non lo conosco. Allora Mario, di questa puntata. Ok. Vabbè, noi semplicemente tra i vari miliardi di tipi di storage che esistono, noi, dato che questo, come abbiamo detto, è la puntata come fare podcast per pezzenti, che è effettivamente così. No, senti, di gratis, per pezzenti, è triste per diversamente per ricchi. Pezzi. Bravissimo. Esatto. Oppure come quella pagina di Facebook, poveri, ma con la Y finale. Ah, ok, perché fa più... Ok, figo. Ai poveri. Giusto. Ottimo. Noi stiamo... lo storage che stiamo utilizzando, che si chiama archive.org, che praticamente è l'Internet Archive, che è una società basata a San Francisco, non profit, che praticamente sta tirando su, ma da anni, se non sbaglio, è stata fondata nel 96, sto guardando Wikipedia, non so tutto questo a memoria. Quindi c'è una specie di libreria di internet in cui... C'è anche una cosa che si chiama la Wayback Machine, se non sbaglio, integrata, in cui si possono vedere versioni di decine di anni fa di siti web, e tra le varie cose permettono di salvare da loro e poi rendere disponibili sulla rete file multimediali, diciamo, come si diceva 10-20 anni fa, quindi audio, video, roba del genere. Moltissima gente lo utilizza come storage a basso costo per podcast, per esempio, come stiamo facendo noi, quindi a costo zero possiamo salvare dei file e poi avere un link diretto per poter scaricare quel file e quindi ficcarlo in un feed. L'unico conto che ho trovato che alcune persone si lamentano che è lento l'upload, però dato che noi ci teniamo abbastanza bassi come dimensione dei file, siamo tipicamente di, non so, non superiamo mai 50 mega, ci vorrà qualche minuto, però visto che lo fai una volta e poi la velocità di scaricamento è decentissima quando io tiro giù il podcast, a me soddisfa. Poi c'ha, come dire, una società no profit, quindi si preoccupa della preservazione della conoscenza dell'umanità, poi in particolare quella digitale, eccetera. Io stavo meditando, e non si paga nulla assolutamente per un servizio che normalmente si paga di hosting, e quindi secondo me la posso consigliare, quindi ogni tanto vorrei anche fare una donazione come risparmio sull'hosting che noi non dobbiamo fare. E questo è il nostro, che attualmente usiamo. Beh, lo possiamo fare con parte dei proventi di Amazon. Sì. Secondo me non è una cattiva pensata. Questo è da parte nostra che utilizziamo noi. Poi... Diciamo, vorrei solo aggiungere il fatto che abbiamo fatto un po' di prove con Dropbox e con Google, sì. Google Drive, perché spazio gratis possiamo metterlo. Non abbiamo fatto conto del numero di download, nel senso che questi due sistemi permettono di mettere dei file gratis nei loro data center, ma quando il download comincia a essere un po' pesante, nel senso che ci sono tante persone che scaricano il file, il limite è bassissimo e abbiamo avuto il link pubblico bloccato. Sì, quindi dopo poco. Sì, forse dopo 6-7 ore neanche. Sì, ma cioè siamo meno di un centinaio di download già, ciao. E quindi abbiamo dovuto cercarci una alternativa. Io per il mio podcast ho provato e sto provando e sto usando SoundCloud, che è una piattaforma molto, molto conosciuta per i podcast, è gratis fino a un certo numero di minuti, non è a megabyte, ma è a minuti. Secondo me funziona, è un po' meno versatile, cioè lui è fatto così e basta. Se non sbaglio sono 2 ore al mese, se l'avevo visto all'inizio. No, lui in quello gratis ti permette di ostare 2 ore e basta. Cioè, nella vita? Sì, tu carichi, quando raggiungi le 2 ore che le superi non ti fa sentire quelle più vecchie. Bello. Ah, ok, quindi se paghi ti raddoppia il tempo, se paghi un tot mi pare 100 euro all'anno, sì. Se invece paghi di più ti dà tempo illimitato, più tutte le statistiche, più la possibilità di condividerlo, okay, in modi diversi, eccetera, ma per una partenza base secondo me va più che bene. L'unico limite è che se cominciate a avere tante puntate non sono tutte disponibili, perché quando fate quelle nuove dovete cancellare quelle vecchie. Io sul mio ho fatto che le tengo finché ci stanno, poi su Google Drive ci saranno quelle vecchie e tanto non avranno tutti questi download, ho messo il link pubblico e ok, ottimo. A questo punto direi che si può parlare del sito, perché abbiamo il file, l'abbiamo messo da qualche parte, ora bisogna fare la pubblicazione. Max, ce ne parli tu? Certo, questa la so, su questo sono preparato. Fanciulli, risponda. No, vi devo raccontare questa, perché noi abbiamo un file di Google Drive, di Google Docs, dove condividiamo le scalette, e Massimiliano ha scritto in maiuscolo questa, la so, poi ha messo e tolto il grassetto per farla lampeggiare e mi ha fatto morire. Un lampeggio fake, anni 80, bravo. Vai, Max. Anche questo a basso budget era. Allora, arrivati a questo punto, come diceva Francesco, va pubblicato, va fatto un sito, va condiviso su internet e sul sito vanno messi i link al podcast. Quali sono le soluzioni? Le soluzioni sono molte, internet ha tanti servizi che permettono la pubblicazione di siti. Noi vi parliamo di un paio, uno in particolare perché è quello che utilizziamo proprio per questo podcast. Allora, noi utilizziamo GitHub come servizio di hosting. Esatto, un cappellino per dire cos'è. Cioè, Vai, certo, vai. Certamente. Scusami. Allora, GitHub è uno dei servizi più noti, almeno in internet, per l'hosting di repository di codice. Si basa su Git, che è un sistema di versionamento, e permette a tutti gli sviluppatori di fare l'upload del proprio codice, gestirlo, condividerlo e mantenere appunto il versionamento, cioè mantenere tutte le versioni dei vari file nel tempo. Permette di fare anche tante altre cose. Per cosa c'entra l'hosting con GitHub? Per ogni progetto GitHub mette a disposizione la possibilità di realizzare un sito, e per ogni utente permette di realizzare un sito per quell'utente. Quindi se voi andate su GitHub e cercate Git Cookies, troverete un account di mi sentite? Sì, sì, no, sento un po' a scatti, però dato che registriamo ognuno in locale, poi sarà perfetto, a posto. Perfetto. Se ti mancano dei pezzi, poi anche... li chiedo, non ti preoccupare. Ok, va bene, dicevamo che se andate su GitHub trovate il nostro account, e collegato a quello troverete il nostro sito. Quindi se avete necessità di realizzare un sito, che sia per un podcast o per quello che voi volete, potete andare su GitHub, seguite le istruzioni che ci sono, perché non è una cosa immediata, ma potrete avere l'hosting di un sito. Io ad esempio ho l'hosting del mio sito personale su GitHub, e ho comprato soltanto il nome del dominio e ho fatto in modo di collegarlo a GitHub. Dio. Altrimenti avrete un nome di hosting del tipo username.github.io. Ok, io posso interromperti un attimo? Dimmi. Se sta scaricando delle cose legali, io le spegnerei, perché ti sento veramente molto scatto, ho perso dei pezzi di frase. non so, forse mi sono perso, hai spiegato per come vengono prodotti i siti web proprio, oppure? No, non ancora. Ah, ok, scusami, allora... Era proprio il punto in cui era arrivato. Allora, su GitHub viene fatto girare uno strumento che si chiama Jekyll, e che permette di realizzare in maniera, diciamo, chiamiamola tra virgolette, semplice, un sito web. E in pratica Jekyll si basa su dei linguaggi, uno di questi è il Markdown, che permette di descrivere una pagina web in maniera molto più semplice, e questa pagina viene poi processata appunto da Jekyll e viene generato la pagina HTML. Quindi ti interrompo solo per aggiungere un piccolo dettaglio. Tu hai detto in maniera abbastanza semplice, è semplice per i nerd di una certa data, nel senso che secondo me lo scalino è molto alto. Il primo scalino di apprendimento, poi va via liscio. Però se volete cominciare a usare GitHub, non vi arrendete, perché sembra difficilissimo. Sì. Mettere le prime due pagine. Pensate, l'avessi fatto in WordPress, avrei anche già registrato tre puntate. Però poi quando è fatto e che avete capito la logica, è molto più esatto. Rapido. Infatti, allora, mettiamola così, il linguaggio Markdown non è particolarmente complesso e è molto veloce da utilizzare. Il connubio GitHub e Jekyll richiede un bel periodo di apprendimento, perché sono due cose che se non si usano richiedono un buon tempo di apprendimento e di pratica. Infatti io sulla parte del sito ho lasciato fare a Mario e a Max, per il mio ho usato WordPress, che ho fatto due click, scelto una password ed era funzionante. Ah, io dal lato nostro posso dire che, cioè, secondo me il pro di usare GitHub, prima cosa è, se ti forzi a farlo impari molto a usare Git. Io quando ho iniziato ero agli inizi, quindi come diceva Massimiliano, Git è un, come dire, è GitHub, il repository che è basato su Git, che è un sistema di versioning del codice, fantastico, però che è una curva di apprendimento molto complicata. Il bello di usare questo metodo è che puoi avere tutto il tuo sito web, che essendo in Markdown è testo, quindi è codice ed è in pochi K, in un sistema di versionamento di codice. Quindi io posso, quando io scrivo un nuovo blog post per il nostro podcast, io creo un nuovo branch di tutto quanto il sito web con le prove che sto facendo, la draft attuale, eccetera. Faccio girare un motore di Jekyll sulla mia macchina per vedere come sta andando. Una volta che ho finito, faccio un merge con, diciamo, il branch master, quello dove c'è la pagina, che come si può chiamare in italiano? La branca? No, è orrendo da sentire. Una versione del tuo codice, fondamentalmente. Sì, vabbè, diciamo il troncone principale del codice lo rifaccio rifuori tutto insieme quando ho finito e via. È davvero molto comodo, devo dire. Poi io sono anche un evangelizzatore di Markdown, che lo sto proponendo urbi e torbi, lo uso anche per lavoro, per scrivere paper scientifici, eccetera. Quindi se qualcuno è interessato, io posso solo che consigliarlo, perché è davvero comodo. Io scrivo su tutte le mie note in Markdown. Ho scritto anche dei piccoli pezzi di JavaScript per motori di rendering, per poter generare tabelle tabelle di contenuti automaticamente basate sui livelli di header, eccetera, quando scrivo le mie note, per dire. Cioè, c'è una serie di cose, poi è facilmente modificabile. Quindi io questa via la consiglio per chi ha voglia di avere il controllo totale su quello che sta facendo. Quindi io ho scritto la pagina per la generazione del feed RSS, per il feed di iTunes, tutto quello che vede sul sito, a parte il design, che è un design open source già preso, tutto il resto ce lo siamo dovuto fare noi, anche tutti i colori, che ovviamente faranno schifo perché l'ho scelto io, non sono un design. Ma i colori te li avevo proposti io, sono assolutamente la copia di quelli di IBM, così ora ci restano tutti. Esatto, sono ispirati. Esatto. È vero. Ok, quindi comunque, Mario, perché ti vuoi così male? Cioè, parliamone pubblicamente adesso con l'ascoltatore. Il design non è il mio padre. No. Era lo scrivere le note in Markdown con tutto un sistema che... Aspetta, però non abbiamo messo il dito nella piaga, perché io per fare tutto questo gioco uso solo Vim, che è l'editor supremo che regna su di voi. Quindi... Allora, se c'è qualche psichiatra cortesemente che può procurarci un'ambulanza per portarlo via, vi forniamo poi l'indirizzo corretto per andare a prenderlo. Voi non capite. Guarda, anche l'autore di VI lo ripudia oramai. Prego? Dico, anche l'autore di VI lo ripudia. Sì, esatto, ma guarda che VI non è Vim, cominciamo, scateriamo una flame war mortale su questa roba. Non mi dite che siete Emacs, perché spengo adesso e me ne vado. Attenzione, stiamo per cominciare una battaglia. Io in Linux, quando sviluppo, quando ho proprio bisogno dell'editor di testo, uso Nano, che fa esattamente quello che a me serve, che è facile okay. ci può stare. Comunque c'è da dire una cosa: per chi usa Linux per qualsiasi motivo, imparare VI è difficilissimo, ma è importante, perché la volta in cui non partirà una mazzaccia, ti servirà un editor, ce ne sarà uno installato fuorché VI. Vi hai installato, io penso, nel bootloader. Cioè, sì, se accendi la lavatrice c'è VI, cioè non c'è problema, sei sicuro. Te smadoni, non c'è l'LR, non c'è, fai VI, tumpa. No, cioè, incredibile. ottimo. Bene, io faccio la mia parentesi sulla parte di WordPress. WordPress ha un... Oltre a dare la possibilità di installare sul proprio dominio il suo script con tutto il CMS, ma lì c'è un costo, perché bisogna comprare il dominio, l'hosting e il motore di SQL, su wordpress.com c'è la parte gratis, che vi permette di fare un sito in WordPress e un blog. Ha alcuni limiti, però è molto molto rapido e ha sufficiente spazio per caricare tutto tranne i file del podcast. Quindi se avete paura a schiantarvi contro GitHub, WordPress, ma secondo me anche un com'è che si chiama il motore di blog di Google? Non mi ricordo più. Datemi una mano. Blogpost, no, sì, capisco. Come? Era Blogger. Blogger o Blogspot? Non mi ricordo più. Blogspot. Ah, perfetto. Secondo me anche con quello si può fare. Alla fine un sito di un podcast è assolutamente assimilabile a un blog con il link, sì, al file audio. Sì. Boh. Fondamentalmente sì. Penso che esistano pochissime persone al mondo che poi se lo vanno a sentire direttamente sul blog, cioè ma proprio io se devi. Vi dirò, da SoundCloud ho più della metà dei miei infiniti ascoltatori del podcast nuovo in streaming. Mi stupefaccio proprio. Anche io, davvero. Non me l'aspettavo. Okay. Io il podcast lo scarico la mattina dal telefonino, esatto, e me lo ascolto in macchina mentre vado al lavoro, ma normalmente. Secondo me perché SoundCloud è una piattaforma che aggrega gente che è abituata a sentire da loro direttamente varie cose, quindi tra cui anche i podcast, mentre chi in genere legge blog, cioè li legge. Sì, infatti. Esatto, cioè io che ascolto podcast vado a leggermi il blog post solo se sento qualcosa che mi interessa. Non è che vado di default sul sito del podcast a vedere. No, io ci vado solo se ho bisogno del link, cioè se parlano, sì, di qualche, sì, cosa, esatto, e dicono c'è questo sito che sto guidando, non me lo posso segnare, allora vado sulla esatto, pagina. Esatto. Io tra l'altro da malato, quando c'è qualcosa di interessante, non finisco di sentirmi l'episodio, li lascio lì finché poi quando me li vado la sera, vado io a casa, c'ho decine di podcast che ci manca un secondo. So che devo andare a vedere il blog post perché c'è qualcosa di interessante. Poi vedete, non so più cosa, quindi mi devo leggere pagine e pagine di robe. È per quello che io preferisco fare la pagina del podcast con giusto i link necessari. Ragione, perché sennò se rifai tutta la trascrizione del podcast diventa difficile, anche perché deve cercare quelle tre cose lì. Va benissimo. Abbiamo parlato dell'hosting, ora parliamo del feed, perché non sembra, ma il feed è la cosa fondamentale, su quello si basa iTunes, i software che scaricano i podcast, eccetera. Chi ce ne parla? Massi, lo posso fare velocemente io almeno? Vai veloce. Ok, come dire, allora, io in realtà posso parlarvi di quello che stiamo usando noi, di quelli... Immagino che i servizi come SoundCloud che usi tu, una volta che hai caricato i file, forniscano un feed RSS dei file che tu stai mettendo online, non sbaglio? Sì, giusto, e te lo forniscono già strutturato per, quindi tu lo dai in pasto a iTunes e a iTunes piace. Ok, perfetto. La stessa cosa lo fa, se ti interrompo, FeedBurner. Quando tu fai un feed con FeedBurner, spunti la vocina, sono un podcaster, e ti fa mettere tutti quei campi che servono per la pubblicazione. Ok, se non sbaglio sto cercando FeedBurner, era quello di Google, no? Era quello che si era comprato Google, io esatto, pensavo che l'avessero abbandonato e invece c'è ancora ed è assolutamente funzionante. Sì, però l'ho detto da che parte che lo stavano, molta gente sta scappando perché la cosa nota di Google che compra e porta a morte... L'ha fatto troppe volte, in effetti, sì. Madonna, da Google Wave ancora il bestemmio la notte che hanno levato. Guarda, beh, se però tu guardi come funziona il documento doc di Google, mm-hmm, non è altro che una riedizione, sì, di Wave. Sì. Però è un pelo cambiato. Cioè, Wave c'aveva quelle cose particolari che a me facevano piacere moltissimo. Comunque... ovviamente, come stavo dicendo prima, nonostante noi siamo tutti utenti Apple, ci piacciono in genere le cose di Apple, per esempio, dato che vi stavo dicendo prima che Apple ha delle piccolissime differenze come al solito, tu fai un feed, come diceva Francesco, normale, che qualsiasi lettore di RSS dell'universo è contento, iTunes ovviamente non è contento, perché vogliono una serie di... come dire, una serie di tag che devono esserci e poi una serie di tag che sono specifiche per iTunes, cioè se tu metti una tag che si chiama, che ne so, categoria o nome o titolo, non è contento iTunes, non la legge, quindi vuole una tag che abbia quello che si chiama nel linguaggio RSS XML un namespace diverso dedicato a iTunes, e con una serie di tag che lui riconosce come proprietari e quindi va a leggere quelle. Fondamentalmente tu metti una tag titolo che leggono tutti gli aggregatori, i lettori di podcast, eccetera, e poi ne metti un uguale che è fatto solo per iTunes, però dentro c'è lo stesso contenuto, altrimenti iTunes non riconosce il titolo che tu hai messo all'interno del tuo feed. Quindi se tu lo compri da un servizio di hosting come SoundCloud o FeedBurner, eccetera, sono già come dire, aggiustati per essere digeriti da iTunes. Se non ricordo male, quando abbiamo fatto il nostro avevo trovato un sito a cui tu potevi mettere in passo il tuo feed e lui ti diceva tutte le magagne, diciamo, non come si può dire, non conformità a RSS, eccetera, se hai sbagliato qualcosa, ma anche le magagne relative solo a iTunes, nel caso voglia fare un podcast. Sì, sì, c'è, te lo confermo, l'ho provato anche io, esatto. Vediamo di cercarlo e di mettere poi il link, ecco, nella come pagina. Come diceva, non c'è stato a piangere, ora me lo segno, così me lo ricordo. Bravissimo. Esatto. Ok, perfetto, quindi a questo punto ci manca ancora un punto finale, ma importante. Ce ne vuoi parlare tu, come fai a ottenere le statistiche dei tuoi ascolti, per esempio? Io le statistiche le uso, le guardo su SoundCloud, nella versione gratis, sono molto basilari. Ah, mi dice per singolo giorno quanti play in streaming e quanti download divisi per download direttamente dal player, piuttosto che via RSS. Okay. Se paghi ti danno statistiche molto più approfondite, quindi da dove arrivano, cioè c'è roba molto più professionale. Ancora non ho pagato, ci devo pensare, non so se lo ma alla fine, dato che noi lo facciamo per marketing, non è, cioè giusto per avere un ordine di grandezza. Ma sai cosa? È che se tu sai che ti che ti scaricano in tre persone piuttosto che in 350, sai se vale la pena continuare oppure no, cioè se nessuno ti ascolta dici vabbè, pazienza. Sì, esatto, no, hai ragione. Però no, in effetti una volta che hai un po' di feedback da parte degli ascoltatori, il fatto che scarichino in 500 piuttosto che in 700 secondo me è soddisfazione personale, visto che noi non abbiamo promozioni all'interno del podcast che ci pagano per quantità di download. È una cosa per dire guarda, stiamo crescendo, quindi significa che la qualità che teniamo piace, piuttosto che diminuisce, quindi c'è qualche cosa che non va. Io esatto. la vedo così. Infatti su questo volevo poi portare, dopo parleremo dell'ultima puntata che ha avuto come dire, un'inflessione nella nostra media. Comunque, quello che invece, cioè, questo è un modo, quindi se tu ascoltatore metti il tuo podcast che farai dopo aver sentito le nostre fantastiche spiegazioni su una piattaforma a pagamento in cui puoi usare la parte free eccetera come SoundCloud che fa Francesco, è un modo. Archive.org per esempio, che utilizziamo per questo podcast che stai ascoltando, ti fornisce anche le statistiche aggregate di scaricamento del singolo file, quindi dato che quel file non è pensato, cioè non è per forza per un podcast, quindi loro si segnano da una parte quante volte viene tirato giù, e questo per noi è generico, nel senso io quello stesso file lo metto nel feed RSS, nel player sul sito web, e se qualcuno prende la nostra pagina, fa uno scraping e la mette da un'altra parte, se viene premuto un play lì che tira giù quel file d'archive, quello viene segnato. Però le statistiche lì non sono, diciamo, molto basilari, ti danno ogni giorno un incrementale di quanti scaricamenti sono stati fatti da quando hai tirato su il file. Quindi se io lo apro oggi so il file di un mese fa è stato scaricato 8 volte, se lo apro tra un anno so quante volte è stato scaricato in mezzo. Io avevo cominciato a fare su un piccolo serverino che avevo io uno script Python che andava a tirare giù queste statistiche ogni giorno, quindi mi permetteva di avere lo storico, una specie di grafico che uno può tenere giù da Google Analytics, quindi sapendo ogni giorno quando è stato scaricato io so la differenza tra il giorno di oggi e il giorno di prima, quante persone hanno scaricato in un certo giorno. Questa temporalità ti dà poi un'informazione in più, quindi cose di cui abbiamo a volte parlato, che ne so, puoi scegliere se pubblicare il tuo podcast la domenica o il lunedì, oppure se è meglio metterlo il venerdì perché la gente il fine settimana ha più tempo, eccetera. Però questo, come dicevamo, sono veramente finezze. Già sapere quante persone hanno scaricato, proprio per i podcast nostri, dato che abbiamo una coda lunga abbastanza importante, cioè noi siamo su, non so, diverse centinaia per puntata di ascoltatori, però reggono bene alla lunga, cioè anche le prime puntate vengono scaricate andando anche adesso, quindi andando più là nel tempo, quindi diciamo la cosa ci soddisfa, però avete... sì. Prego. No, scusa se ti ho interrotto, io mi immagino sempre la persona che trova il podcast alla puntata 15 a giusto. Tempo e se le scarica tutte. Giusto, secondo giusto. Me, cioè, nell'attimo in cui acchiappi l'ascoltatore nuovo o hai fatto 1500 puntate e non ce la farà mai, okay. Ma nel nostro caso che ne abbiamo fatte 8, avere una dozzina di ore di ascolto uno... arriva e se le riscarica. E quindi, giusto. Secondo me, è per quel motivo lì che le prime puntate comunque tengono. Sì, infatti la cosa mi stupiva, però giustamente ha senso. Cioè io faccio così, se trovo un podcast che alla 50ª puntata magari mi scarico le ultime 10, ma okay. Se un podcast che è alla 10ª o alla 15ª faccio che scaricarle tutte, a meno che non sia un podcast di news... e le no, puntate okay. Vecchie sono ormai scadute che non servono più. Se è un podcast di tecnologia, un podcast per esempio Physicast che io amo, secondo me in un momento qualunque vale la pena, lo conoscete e ve le scaricate tutte. me l'avevi già accennato, devo, essendo no, io è, un fisico devo... è veramente, veramente un gran podcast, secondo me ne vale la pena. Secondo me hanno sparato un po' troppo alto quando hanno parlato della fissione fissione fredda, casomai. No, quella della tecnologia di Chernobyl, e secondo me hanno, okay. Sono un po' troppo centrali elettriche di quel tipo lì. Però per il resto veramente di altissimo livello e molto molto semplice, secondo me, okay. Io continuo a sostenere che debba essere ascoltato persino nelle scuole. Infatti stavo vedendo adesso, non lo conoscevo, io conosco Scientificast che seguo, ho interagito, sono stato anche ospite qualche volta. Ma Physicast ha un plus, sono mm-hmm. professori di fisica. Ok, quindi più professionale, cioè professionale. Vabbè, scusa, i ragazzi che fanno scientifica sono tutti ricercatori. Ah sì? Quando parlano... non sapevo, ok. No, quando parlano del loro campo, tutti, cioè chi si occupa di biologia, di chimica, sono tutti ricercatori, non c'è nessuno extra. È gente che sul campo, poi spessissimo ci sono puntate in cui si discute di articoli scientifici usciti su Nature, cioè in realtà hanno delle bei servizi, quindi lo posso allora consigliare. Lo aggiungo. Vadi. Io invece quello che dicevi sul podcast come dire, riprendere che hai preso dopo, io ho scoperto da poco un podcast che sto cercando di seguire tutto, che Fumble, è un podcast di GDR, non so se lo conoscete. Sì, ce lo avevi fatto, esatto, fatto conoscere. Devo essere sincero, non ho ascoltato ancora puntate perché non so quanto mi possa prendere, ma ti è solo... piacere. Ma io ci ho giocato parecchio ai giochi di ruolo, non so come può essere ascoltare gente che gioca. Guarda, i ragazzi sono molto bravi, diciamo, radiofonicamente, poi ti fanno divertire, la compagnia è molto ben fatta, quindi c'è sempre da ridere, però sono un sacco di puntate, dato che, come dicevi, non è scientifico, non è di tecnologia, quindi le puntate vecchie non scadono, poi devi sentirle in... progressione, altrimenti ti perdi la storia, e hanno 90 puntate, una roba assurda. Mi sto piano piano tirandomi avanti, e però ci arriverò un giorno. Potremmo fare poi una sezione di una puntata dove mettiamo tutto quello che ascoltiamo noi come sarebbe, come podcast. Sì. Io proponevo di fare, non so, una volta ogni tanto una roba tipo: ognuno di noi prende il suo aggregatore di podcast e se ne sceglie due o tre, o tipo uno a puntata, una roba del genere. Cioè il podcast... Non sarebbe male, sai, sì. Ok, lo posso cominciare la prossima volta, ma lo segnerò. Ok. Quindi direi che abbiamo analizzato un attimo in breve a quanto siamo, a un'oretta di trasmissione. Sì, se è audace... Abbiamo analizzato tutto quello che concerne la pubblicazione, poi ovviamente c'è tutta la parte di pubblicità, ma è roba di tecnicismi diversi. Quindi direi che la parte relativa al podcast la possiamo chiudere qua. Siete tutti d'accordo? Io direi sì. Ok, perfetto. Adesso la ricetta di Valentina, ci risentiamo tra qualche minuto. I biscotti per questo mese di luglio sono leggerissimi, a base di ricotta, senza uova né burro. Io comunque per sicurezza vado in vacanza in montagna e tanti saluti alla prova costume. La ricetta originale del famoso pasticcere Luca Montersino, una garanzia in fatto di dolci buoni e genuini. Per 12 treccine alla ricotta di Luca Montersino ti servono 250 g di ricotta di pecora o ricotta faccina per un sapore più delicato, 180 g di farina, 120 g di zucchero, buccia di limone o di altri agrumi oppure semi o estratto di vaniglia, un cucchiaino di lievito per dolci, un pizzico di sale e qualche cucchiaio di latte zuccherato. Metti tutti gli ingredienti tranne il latte in una ciotola e lavorali rapidamente per ottenere un impasto omogeneo. Dividi l'impasto in pezzi da 50 grammi, lavora ogni pallina di impasto in un filoncino, piegalo a metà e intreccialo su se stesso. Metti le treccine su una placca ricoperta di carta forno, spennella con il latte zuccherato e cuoci a 170 gradi in forno preriscaldato statico per 20 minuti all'incirca. Lascia raffreddare e servile. Si conservano per qualche giorno in un contenitore ermetico. Bentornati, e adesso facciamo la terza parte della puntata, che è quella un po' più social, visto che ci avete scritto in molti, direi molti più delle nostre aspettative. Non ci aspettavamo davvero una risposta così intensa. Grazie a tutti, anche perché sicuramente capiterà che ci dimenticheremo di qualcuno, quindi se ci siamo dimenticati riscriveteci, che vi citeremo nelle prossime puntate del podcast. Io comincio con il ringraziare Davide Varni, che ci ha scritto tanto tempo fa, faceva ancora freddo e non caldo come ora, come ci si scioglie ora. Ci ha ringraziato della puntata sulla scheda You Do, gli è piaciuta tantissimo. Tra l'altro vi ricordiamo che c'è il codice sconto Geek Cookies sul sito di You Do, che valida fino a febbraio del 2016, 10% di sconto e annullamento delle spese di spedizione. Ve la siete comprata voi? Io ancora no. Io sto giocando con i Raspberry ancora vecchi. Io sono alla seconda, ma non perché me ne sia comprata una, ma perché la prima che mi hanno mandato aveva qualche difettuccio hardware, gliel'ho segnalato e me l'hanno rispedita con UPS in 24 ore e sto aspettando la prepagata per rendere l'altra, quindi totalmente gratis, gran supporto per l'assistenza ai ragazzi di You Do. Come si dice? Tu ci hai parlato di You Do, Massimiliano dovrebbe essere più esperto. È Udo, You Do o... No, You Do. You Do, perfetto, ottimo, ok. Bene, quindi io posso introdurre, ringrazio il secondo dei nostri ascoltatori che ci ha contattato sempre tramite Facebook, che è Mirko Romanato. Ci ha fatto alcune domande sull'episodio 4, in cui abbiamo parlato del Raspberry, il Banana Pi e sui cloud. E, beh, lo ringrazio di averci contattato e ci ha fatto un po' di domande su quale programma per, diciamo, simile a un cloud, quindi cloni free di Dropbox che potete installare da voi, cosa sarebbe meglio usare. Abbiamo avuto una piccola discussione su Facebook, quindi sono curioso di sapere alla fine cosa hai usato, cosa hai installato, e se hai qualche altro consiglio, se vuoi che ne parliamo ancora, ci contatta, ci facci sapere un po' su qualsiasi media di quelli che poi vi daremo tutti i contatti alla fine, quindi ti ringraziamo ancora. Poi Massimiliano, c'hai qualche contatto tu da... Ho sotto mano una mail, questa proviene da Twitter, stiamo parlando di marzo, ho il dubbio che ne abbiamo parlato forse in una puntata, perché stiamo parlando di Marco Acorte, che ha fatto uno scambio di opinioni con voi due, vedo appunto Kid Pixel e Cesco 78, quindi siete voi due, e parlava con voi di domotica, diceva che ha fatto degli esperimenti con Raspberry. Sì, mi ricordo. Sarebbe interessante magari saperne un po' di più, anche qui capire se nel frattempo, visto che questo scambio era di marzo 2015, se nel frattempo ha qualcosa in più da dire o qualche novità è saltata fuori. Quindi ritorna da noi e facci sapere che cosa hai da aggiungere. Torna all'ovile. Sulla parte di domotica alla Torino Maker Faire ho conosciuto un gruppo di persone che ha fatto uno shield per Arduino che ha la forma esatta dei modulari DIN per gli impianti elettrici. Bello. Di conseguenza ci sono relè, sensori, contatti puliti, tutto dentro una scatola che si può mettere in un comune armadio elettrico da casa. Ho il contatto, magari lo chiamo, ci facciamo raccontare qualche cosina di più. Era interessante davvero, perché sull'Arduino purtroppo manca la parte di potenza e bisogna svilupparsela. Loro hanno fatto questo shield che gestisce tranquillamente tutta la parte di potenza. Sulla domotica ci sono grandi lavori dalle società più famose, c'è Apple, c'è Brillo di Google, un nome più assurdo non lo potevano scegliere, c'è Honeywell che ha fatto della gran cosa, c'è Netatmo che, Max, sai che è uscito con la parte di sensoristica solo, non so se li hai visti. Con la parte di sensoristica stai parlando del Welcome? Sì, quei cilindretti lì, ne metti uno fuori casa, uno in casa, che ti segnano temperatura, sì, umidità. Ma quello è vecchio, è di tanti anni fa, è la stazione meteorologica. È veramente carina. E, sulla domotica, secondo me, nei prossimi mesi ne vedremo delle belle, e sulle schede, per chi vuol fare da sé, secondo me c'è un sacco di roba su cui lavorare. Ottimo. Continuando nella nostra lista... C'è il Disturbing Puzzle Game di Davide Varni. Sì, mi sa che l'avevo postato io, è un giochino. Non ci ho mai giocato perché ho sempre paura di caderci dentro. Esatto. Sì, infatti lui ci aveva commentato che l'aveva anche provato lui. Quindi se hai comunque sono, è sempre di marzo, mamma mia, siamo proprio in ritardo. Sì, siamo ancora veramente lentissimi, mamma mia. Vergognosi. Però ci stiamo riprendendo, quindi se hai ancora qualche... Se sei riuscito a finirlo, facci sapere, sarebbe una roba... Se sei ancora un ascoltatore, facci sapere. Esatto, batti un colpo. Okay, c'è Marco quindi... Paglia che invece ci ha fatto cadere nel tunnel del retro gaming sul Raspberry. Mi sembra che, Mario, ti sei comprato il pad. Esatto, ho comprato due pad SNES USB replica, e ho tirato giù la distribuzione che avevo consigliato, anche e soprattutto perché avevo consigliato e non l'ho mai usata, che è la RetroPie, che è praticamente una interfaccia per Raspberry di una roba che si chiama Emu Station. Tra l'altro ho scoperto, sono due ragazzi tedeschi che la fanno, quindi qualche giorno puoi anche beccare e fare un paio di domande. E comunque è un emulatore di qualsiasi cosa che gli venga in testa mai fatta dall'uomo, e funziona fantasticamente. La metti nel Raspberry, metti sulle ROM dei giochi che hai, ovviamente, non scaricate, e no. metti qualsiasi pad e lui va. Cioè, vi giuro che non c'è problema. Tra l'altro non mi ricordo se era Marco Paglio o un altro ascoltatore che aveva fatto anche una bella retrospettiva sul suo blog, quindi poi casomai andando avanti potremmo vedere se era lui. Quindi ti ringraziamo, Marco, soprattutto per averci contattato, e facci sapere la tua esperienza, come è andata avanti. ringraziamo Alessandro Scarcella che ci ha fatto un sacco di complimenti su Facebook. Siamo finiti al primo posto dei suoi podcast che ascolta, è sempre una gran soddisfazione, direi. Ottimo. Buone. Proseguo io allora. Vai, ringraziando prego. Intanto Marco Tanci che sempre a marzo ci parlava di una stazione meteo ad energia solare. Chiedo scusa intanto a Marco Tanci per non aver minimamente seguito il discorso, ma è interessante, la leggo e semmai tornerò da lui con qualche domanda, okay, oppure magari approfondirla nelle prossime puntate. Marco, sì, infatti questa è un'idea molto interessante. Poi io ho cominciato a provare una cosa del genere, però poi l'ho distrutta per poterci fare la stazione di emulazione, quindi casomai la tiriamo su tavola. I videogame vincono sempre, non c'è niente da fare. È una lotta impari. E, tra l'altro Marco aveva anche un sito in cui aveva cominciato a mettere i dati della sua stazione meteo, poi se lui ci dà il permesso vi linkiamo la roba giù, però dovrebbe essere un'escursione su Google Plus pubblica, quindi non più tanto c'è un problema. Quindi prego, prego. C'è Roberto Sartori che ci ha detto che una puntata al mese è troppo poco. Roberto, guarda, noi facciamo difficoltà già a farne una al mese, come avrai potuto notare. Esatto. Il problema poi è essenzialmente che viaggiamo per lavoro non tantissimo, ma tutti e tre, e sempre quando c'è da registrare una puntata. Io non facevo una trasferta, boh, forse da 5 anni. Alla puntata scorsa ero fuori e quindi esatto. Non si sarebbe potuto fare. Non sembra, ma essere in più di una persona l'organizzazione non è che si complica poco, ma è esponenziale, perché devi mettere in campo tutte gli impegni di tutto quanto. C'è qualcuno che ce la fa, noi ci siamo imposti di farlo una volta al mese, ogni tanto perdiamo il controllo, ma cerchiamo di mantenere le 12 puntate all'anno, magari esatto. Con qualche extra, ci stiamo già pensando. Esatto, diciamo... Nel mese quando usciamo è random, però usciamo, qualcosa riusciamo a fare. Sì, l'intenzione nostra era quella di fare la seconda settimana del mese, poi la post-produzione, quindi uscire a metà mese circa. Poi gli impegni sono sempre tanti e non sembra, ma per chi si avvicinerà poi alla realizzazione del podcast, anche la post-produzione non è cosa da 4 minuti, quindi... Almeno per noi non è così. Se qualcuno fa podcast che fa la post produzione in real time, ce lo dica che lo impariamo. Ok, un'altra interazione che abbiamo avuto, quindi ringraziamo anche William Fly tramite Twitter, non so se è il nome reale, non so, in cui... Che se sbaglio l'hai fatta con te, Francesco. Sì, William Fly lo conosco perché ci siamo visti di persona anche okay. Lui di Torino, è uno... Anche lui molto molto nerd, quindi la prima volta che ci siamo visti abbiamo cominciato a parlare di microprocessori, di PLC, di collegamenti, di saldature, eccetera. Quindi ottimo. È uno di noi. Lavora in quell'ambito lì. Ottimo, quindi è uno di noi praticamente. Sì, ottimo. Sì, ci aveva chiesto una guida facile per mettere su un content filter. Sì, io non l'ho seguito. Ho un po' guardato, i content filter hanno un problema essenziale, le liste, e poi come fare il filtro. Il problema qual è? Che se tu filtri sul nome del sito, una volta che hai le liste, che non è facile avere tutte le liste di tutti i tipi di siti, da qualche parte forse c'è qualche lista pubblica. Sì, però cambieranno ogni 3 secondi. Sì, giusto, immagino. Ed è difficile. Poi il problema sorge quando cominci a mascherare il nome del sito, devi cominciare a fare packet in inspection, capire da dove che arriva, per chi è. Cioè, ci va grande capacità di calcolo e... Non so se c'è qualche cosa di open source che si possa adattare in questo modo. Secondo me la soluzione definitiva e più facile è registrarsi su OpenDNS. Non so se sapete, OpenDNS voi per casa fate la registrazione gratis. dite blocca i siti di pirateria, di porno, di giochi online, eccetera, e se avete il vostro DNS con OpenDNS, quei siti non si aprono. Avranno delle liste loro che dice questo loro sito hanno, è catalogato. Sì, sì, loro hanno delle liste esattamente come ce l'ha WatchGuard, ce l'ha Fortinet e tutti quelli che fanno da content filter, le aggiornano. L'unico vincolo è che dovete mettere un piccolo agent se voi siete con l'IP dinamico, perché lui guarda da che IP arrivate, quindi dovete fare una specie di DNS di dinamico specifico per OpenDNS, e sulle vostre macchine dovete avere OpenDNS come servizio di DNS. Tra l'altro ho letto oggi che è stata acquistata da Cisco. Ah, ok, quindi gli ultimi scemi, diciamo. Sì, lo ha twittato, si chiama Mikko Hipponen, è uno... Sì, un nome noto. Sì, sì, sì, sì, è un guru della sicurezza informatica di una notissima società di sicurezza che adesso mi sfugge. Perfetto, così nota che non lo sappiamo. No, gran figuraccia, ma ve la mettiamo nelle note. No, Norton, dico un nome che forse saranno anche sfalliti da secoli. Microsoft. No, non è di sicurezza, è insicurezza. Ok, quindi possiamo, andando a volgere a termine, un'altra... Questo era un mix, ringraziamo... È sempre stato Marco Agorte che ci segue, questo era tramite Twitter, ci aveva puntato a un progetto Kickstarter, quindi è un cazzillo, un mix, di un bellissimo DAC a 32 bit a 384 kHz, che sto guardando adesso su Kickstarter, molto molto figo. E che te ne fai di 384 kHz di campionatura? Ma se tu fai un Kickstarter devi dire faccio mille milioni di kHz, anche se non li usa nessuno, per fare il figo. Sopra i 44 è completamente inutile, quasi. Lo so, non... è per fare figo. Tanto è tutto fatto in super SMD con dei componenti piccolissimi. Se devi saldare una cosa sei fregato. No, l'SMD non si salda a mano. Si fa in forno. Ho visto video di gente che fa robe assurde. Sì, devi fare soltanto quello per riuscire a saldare in SMD. Io mai fatto in vita mia. Personalmente faccio difficoltà a saldare sulle piazzole a un decimo di pollice. Vabbè, saldo le valvole al massimo, quindi con dei fili spessi un dito, e già quello mi scappa. Quindi. E poi chiuderei con la lunghissima mail di Domenico Di Concetto, che ci ha fatto un sacco di domande molto interessanti su chi comincia con queste schedine, e ci ha fatto venire in mente che potremmo fare una puntata per chi l'ha appena comprata e vuole cominciare a usarla. Giusto. Secondo me abbiamo pianificato le puntate più o meno fino a Natale, direi. Sì, prossimo anno, cioè, più o meno già tutto. Sì. Gente. Quindi, vabbè, un ringraziamento, come dire, circolare a tutti gli ascoltatori. Quindi sì, ci ha fatto veramente piacere, cioè proprio io non me l'aspettavo una risposta così. Beh, comunque davvero. Se chiunque di voi abbia un ancora, come dire, se ci avete contattato e non ci avete più sentito è perché siamo stati un pelo incasinati, io ho avuto una bimba, lavori, eccetera. Quindi se avete update sulla roba che avete fatto, se volete chiederci qualcosa, se volete insultarci, noi siamo sempre aperti, quindi contattateci. E se qualcuno di voi ha qualche proposta, specialmente, non mi ricordo l'ascoltatore che aveva quel bellissimo blog post su RetroPie, su retro gaming, se ha voglia potremmo anche fare una puntata solo su quello, su retro gaming, su Raspberry o retro gaming in generale. Quindi se qualcuno ha voglia di proporsi di venire con noi saremmo ben contenti di avervi qui. Mi siamo aperti. Bene, direi che per la prima volta nella nostra storia abbiamo chiuso una puntata prima delle 2 ore. Incredibile. Siamo stati bravissimi. No, ma è colpa del caldo. A me si stanno sciogliendo le orecchie. Non so perché... voi con le vostre cuffie. Vabbè, anche a me quello. Nonostante qui siamo a nord, però il caldo ti fa sentire. Sì? Quanti, sì, sì. A quanti gradi siete? Domani è 28, la gente si lancerà dalle finestre urlando. Mario, oggi ne abbiamo avuti 34 e devono ancora salire, quindi lo so, tu sei fresco. Io ho vissuto secoli al sud, so il caldo mortale come di attanaglia, quindi rido di voi intanto. Grazie, grazie, sei proprio gentile. Buona sudata. Domani dalla spiaggia ti manderò una foto e riderò io. Vi odio, va bene. No, tu comunque... grazie Max. Esatto. Le mie ferie cominceranno il 3 settembre, quindi anche io, quindi tranquillo, beh, tranquillo. Ci sei, tieni duro, ci sei vicino. Ecco. Bon, allora direi che possiamo fare il giro di contatti. Max, vuoi fare tu? Certamente, ormai sono specializzato in questa parte. Vai. Allora, bene, allora ci avete trovato, come si è potuto vedere da tutte le email, messaggi su Twitter, Facebook, ma vi ricordiamo ancora quali sono i nostri contatti. Per il podcast abbiamo creato account un po' ovunque, su tutti i social network che sono i più in voga, quindi abbiamo un account Twitter che è GeekCookiesCast, abbiamo un account Facebook, anche questo GeekCookiesCast, uno Google Plus, anche se sembra non utilizzatissimo, credo, che è Geek Cookies. Dopodiché abbiamo l'indirizzo di mail canonico, geekcookiespodcast@gmail.com, e il sito geekcookies.github.io. Insieme a questo abbiamo tutti i nostri account personali che potete usare se preferite per contattarci. Il mio account Twitter è FanciulliM. Quello di Francesco? Cesco _78 e Mario? Il mio è @kidpixo, quindi dovreste trovare anche me. Facilissimo da scrivere. La K dove sta? La X? Da qualche parte. La K all'inizio, la X nel mezzo, una O verso la fine. Ok, qualcuno risponde. Allora, il nostro podcast è ovviamente anche pubblicato su iTunes e vi chiediamo, come al solito, di andare su iTunes se è quello il mezzo che utilizzate per ascoltarci, per tenere traccia delle nostre puntate, e vi chiediamo di lasciare una recensione e qualche stellina. Una cosa veloce, non impegnativa, ma per noi molto molto importante. Stelline direi da 5 in su, se no lasciate sì, perdere. Sì, infatti, esattamente. Sono all'infinito. Diciamo che, allora, ovviamente si fa per scherzare, però noi siamo disponibilissimi anche alle critiche, anzi se sono costruttive ci aiutano a crescere in parti dove magari non abbiamo fatto caso che siamo carenti, quindi davvero giusto. Se secondo voi c'è qualcosa che non va, mail, Twitter, Facebook, qualunque cosa, in modo pubblico, in modo privato, come volete voi, siamo disponibili a ascoltare. Ovviamente se siete troll o ci accorgiamo che siete troll, la cosa sì, verrà lasciata cadere, punto e basta. Non li cancelliamo da internet come siamo soliti. Quindi sia sul positivo che sul negativo, il feedback ci fa sempre piacere, significa che ci ascoltate, significa che comunque vi diciamo cose che vi interessano. Se volete sapere delle cose che vi interessano, noi ci informiamo e ve ne parliamo. Poi Mario, vuoi ricordare la questione di Amazon? Ok, come vedete in questa puntata non so se uscirà qualcosa, però nelle puntate precedenti ogni volta abbiamo parlato di hardware o di qualcosa che potete attivamente comprare e usare a casa. Quando troviamo questi oggetti su Amazon cerchiamo di listarveli nelle nostre puntate, quindi scorrete verso l'inizio dove abbiamo parlato di Raspberry, di varie robe. E, se comprate attraverso i nostri link o se entrate in Amazon attraverso i nostri link e comprate qualcosa, una parte di questo ricavato delle vendite, che è tipicamente pochi per cento, verrà affidato a noi, in quanto voi siete passati dai nostri link, quindi a voi non cambia niente, però una piccola percentuale ci viene rigirata e ci servirà prima cosa per essere sempre migliori e per sostenere un po' questa roba che stiamo facendo per voi e per passione, quindi come per esempio il microfono nuovo di Massimiliano o Pod Cleaner che abbiamo comprato. Sono tutte piccole cosette che però con l'aiuto vostro ci permette di avere un parco hardware software un po' migliore. Potremmo anche pensare di cambiare hosting, eccetera. Quindi se avete qualcosa da comprare, passate da noi, fateci un saluto e andate su Amazon, che per voi non è niente, a noi è un piccolo aiuto in più. Quindi vi ringraziamo anticipatamente per quanti. Qualunque cosa, cioè potete entrare con la scheda del Raspberry, vi comprate il nuovo Kindle Voyage, piuttosto che vi comprate un paio di scarpe. Comunque, se entrate dal nostro link, una piccola parte di qualunque cosa, anche se non è tecnologica, ci arriva. Sì, ottimo. E poi direi che possiamo ricordare come la Creative Commons chiede la parte audio. Noi abbiamo una sigla di apertura e di chiusura che è presa da Giamendo. Il gruppo sono abbastanza famosi Pornophonic, e la canzone è Sad Robot dell'album 8-bit Lager Foyer. L'ho detto giusto, Mario? Sembravi tedesco quasi, guarda. La miseria, addirittura. E vi ricordiamo ancora il codice sconto per la scheda you do. Se mettete Geek Cookies al termine dell'ordine prima di fare checkout, 10% sconto netto su qualunque cosa, quindi le schede, gli accessori, i monitor, tutto. E la spedizione non vi viene conteggiata. Loro spediscono da Firenze e spediscono in 24 ore con UPS, quindi fate l'ordine, mi pare entro la mattina sicuramente vi arriva, non il giorno dopo perché devono processarlo, ma quello successivo. Sono veramente efficienti e molto molto rapidi. Ottimo. Direi che ho detto tutto, mi sono dimenticato di qualcosa? No, anzi, sono stupefatto della professionalità e della velocità. Bravi tutti. Il nostro Audacity dice 1:27, con tutti i tagli di qua di là, secondo me 1:15 è una durata perfetta per il podcast. Ottimo, perfetto, quindi direi che possiamo solo salutare e ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso. E per chi parte vi auguriamo buone vacanze. Noi penso che faremo ancora una puntata prima della pausa estiva, ora dobbiamo capire un attimo di fasarci con le vacanze di tutti e tre. Max non conta perché tanto lui è sempre al mare, quindi esatto. Sì, sembra che sono tipo disoccupato, una cosa del genere. Ah, ecco perché. Esatto. Ho passato l'ultimo mese a lavorare a Roma, cioè, mamma mia. Diciamo così. dai scherziamo. quindi da parte mia, dalla fresca Berlino con meno di 30 gradi, un abbraccio, un saluto a tutti e seguiteci, ciao. Un saluto anche da Livorno con molti più gradi rispetto a Berlino. Grazie ancora per il microfono e una buona notte da Massimiliano. E un saluto a tutti da Torino, da Francesco. Grazie per l'ascolto e continuate ad ascoltarci e a diffondere. Fateci pubblicità in modo che anche gli amici vostri comincino a ascoltarci. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao.